Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Marketing, addio, arriva il socialing. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Parliamo di un importante appuntamento che si terrà nei prossimi giorni a Milano e che propone questo cambio di prospettiva dal marketing al socialing, appunto, per la creazione di un nuovo modello di sviluppo economico e culturale tagliato su misura per i nuovi consumatori, attenti all'etica, all'ambiente, alla trasparenza e alla qualità della vita. Scopriremo come tra pochissimo. In questa prima parte parleremo anche di design partecipato e della più grande campagna di personalizzazione mai realizzata in Italia. Il focus sui trend della settimana è dedicato invece ai consumi di genere. Quanto conta la diversità, l'appartenenza di genere per prodotti e servizi? La borsa della spesa. Stiamo vivendo l'inizio di una nuova antropologia del consumo. C'è una richiesta di eticità e di sobrietà. Dopo un disagio da eccesso, il consumatore si è accorto che il benessere non è sinonimo di benavere. Crescita economica e benessere sociale non sono più intrinsecamente connessi e vanno invece divaricandosi. Già qualche anno fa il sociologo Gianpaolo Fabris, coautore di questo programma nella sua prima edizione, ci piace sempre ricordarlo, aveva anticipato il cambiamento al quale stiamo assistendo ora verso nuovi modelli di consumo e di vita. Lo testimonia la citazione che abbiamo appena ascoltato, un cambiamento al quale vuole dar voce il primo European Socialing Forum, che si terrà tra pochi giorni, il 15 maggio, a Milano. Il socialing si propone come nuovo modello di sviluppo economico e culturale per guardare oltre la crisi e anche oltre un concetto come quello della decrescita, di cui si discute molto in questo periodo. Ne abbiamo parlato con il coordinatore Andrea Farinetti. La nostra idea di partenza è che l'Europa e l'Italia si trovino in una crisi di tipo strutturale e che quindi non ci sia la possibilità di uscire da questo tipo di crisi con un paradigma culturale e con delle soluzioni che sono sostanzialmente soluzioni vecchie. La nostra proposta è appunto il socialing, quindi una sorta di terza via rispetto ai modelli ai quali noi siamo ispirati abitualmente, che dia grande attenzione alla componente umana, individuale delle persone, che dia grande attenzione all'ambiente e che dia grande attenzione al benessere sociale. Dal marketing al socialing, che cosa cambia? Il marketing, quando è nato originariamente ancora negli Stati Uniti all'inizio degli anni 30, negli anni 40, per poi svilupparsi moltissimo in tutta Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, aveva un obiettivo molto interessante e molto democratico: studiare i consumatori per cercare di andare incontro alle loro esigenze reali e quindi migliorare il benessere economico e sociale delle persone. Nel corso degli ultimi 10-20 anni è sotto gli occhi di tutti questa esasperazione, massificazione di tipo consumistico. Gli esseri umani sono sostanzialmente visti come dei limoni da spremere, in molti casi non si può generalizzare, non siamo ancora arrivati a una reale economia di mercato, ci troviamo molte volte in un'economia di offerta e l'economia della domanda è solo strumentale alle esigenze dell'offerta. Ecco, probabilmente questo tipo di rapporto deve essere sostanzialmente riequilibrato. Ormai purtroppo la parola marketing molte volte si è svuotata di significato. Se noi facciamo una ricerca di mercato, chiediamo alle persone che cosa pensa la parola marketing, pensano che sia una manipolazione, che sia un condizionamento, che sia una forzatura. Quanto i temi del socialing hanno a che fare con la decrescita? Ma questo è un tema estremamente interessante. In realtà il tema è la qualità della crescita. Noi riteniamo che la cosa fondamentale, la riflessione da fare, è che ci debba essere un modello più equilibrato, più rispettoso dell'ambiente, più rispettoso delle persone, con una minore forzatura, con naturalmente l'obiettivo della crescita economica, perché l'obiettivo della crescita economica è un obiettivo sacrosanto. Tra gli ospiti del forum è prevista l'ambientalista indiana Vandana Shiva. In previsione di Expo 2015 il forum lancerà anche la prima carta universale dei diritti della terra coltivata, con due progetti collegati dal chilometro zero al chilometro verde e 10 filiere per salvare il mondo. La sostenibilità ambientale, insomma, avrà un ruolo di primo piano, ma anche qui con una prospettiva di cambiamento dal concetto di sviluppo sostenibile a quello di bioeconomia, come ci spiega Francesco Bertolini, presidente del Green Management Institute, uno dei relatori del forum. La bioeconomia nasce molti anni fa, anche se è un concetto ancora poco noto, nasce negli anni 70 e indica un'economia ecologicamente sostenibile. Noi parliamo spesso, secondo me troppo, di sviluppo sostenibile senza dargli un contenuto concreto. Secondo i fautori della bioeconomia, la sostenibilità è legata alla capacità di consumare in equilibrio ciò che il pianeta è in grado di rigenerare, quindi di creare un ciclo chiuso, un ciclo in cui l'attività di produzione e consumo utilizza delle risorse che vengono poi trasformate, consumate e ritornano poi nell'ecosistema sotto forma di nutrienti, e quindi cambia proprio il concetto del sistema industriale, che non produce più degli inquinanti ma produce dei nutrienti. La prima cosa che viene in mente è l'agricoltura biodinamica, ad esempio, ma è un concetto applicabile anche appunto ai sistemi industriali, e se sì, con quali pratiche? Assolutamente sì, l'esempio delle bioplastiche, cioè di plastiche ottenute da materiali vegetali che vengono poi trasformate in amidi o in oli vegetali, che poi vengono trasformate a loro volta nei famosi shopper che oggi noi usiamo nei supermercati, ma che poi ritornano a essere uno strumento attraverso il quale si fa la raccolta dell'organico e poi tornano a essere compost, e quindi si torna a rimettere questo materiale nel terreno stesso. Sempre in chiave di agricoltura ci sono i teli per coprire i terreni fatti sempre in bioplastiche, ci sono lotte integrate che eliminano i pesticidi e li sostituiscono con insetti utili, tutta l'alimentazione, la pesca ovviamente fatta in maniera sostenibile, i biocarburanti. Oggi la bioeconomia in Europa viene stimata in circa 2.000 miliardi di euro il fatturato della bioeconomia in Europa. Cambiamo argomento con Cristina Lazzati di Business Media, parliamo di design partecipato. Largo ai giovani con Formabilio, la startup per il design partecipato e Made in Italy. Ingredienti: due giovani esperti di comunicazione, il Made in Italy ma quello vero, giovani designer e la rete. Sentiamola dalla voce dei protagonisti. Secondo noi è un'opportunità. Un'opportunità perché noi mettiamo a disposizione tutta la nostra competenza che ci è data dai 60 anni di esperienza e la mettiamo a disposizione di menti aperte, che sarebbero le menti dei designer, proprio per accrescere sia le loro opportunità che le nostre. Nasce così Formabilio, prodotti venduti in rete, precedentemente votati dalla community, selezionati da una commissione interna e realizzati dalle aziende produttrici venete partner di Formabilio. Votare per credere. In chiusura di questa prima parte parliamo di Coca-Cola, perché in questi giorni fa notizia la sua imponente campagna di personalizzazione con la distribuzione di 350 milioni di bottiglie e lattine, sulle quali invece del logo, che lascia il suo posto per così dire per la prima volta in 127 anni di storia, ci saranno i 150 nomi propri più diffusi in Italia, oltre a nomi generici e modi di dire popolari tra i giovani. In Australia, dove è già stata sperimentata, la campagna Condividi una Coca-Cola ha portato in poche settimane ad un vero e proprio boom di vendite. Il direttore marketing di Coca-Cola Italia, Fabrizio Nucifora. C'è stato moltissimo entusiasmo in Australia per questa operazione. Il word of mouth, diciamo il passaparola e la rilevanza della marca sono cresciuti tantissimo, e questo si è tradotto in un aumento delle vendite intorno al 5% in generale e al 7% nei giovani adulti, che sono il nostro target di riferimento. È la più vasta campagna di personalizzazione mai realizzata in Italia, per quanto ne sappiamo. Essere e avere. Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. nuovo in studio con Essere e Avere era il 2010 e il video di Telephone di Lady Gaga, cantato in coppia con Beyoncé, veniva definito un video queer, termine con cui si indica il rifiuto dell'identità di genere e delle definizioni e categorie tradizionali dell'orientamento sessuale. Consumi di genere, il tema del focus sui trend di questa settimana. Ci interroghiamo su quanto e come conti l'identità di genere e la diversità per prodotti e servizi. Lo facciamo come sempre in compagnia della nostra esperta Patrizia Martello di Memetic Lab. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, un saluto a tutti. Dal mondo dei consumi, come riflesso della società nel suo complesso, arrivano segnali significativi che vanno verso una visione più sfumata dell'appartenenza al genere. È il trend gender blind, un modo per dire no anche al pericolo della discriminazione di genere e di orientamento sessuale. In un panorama di prodotti e servizi unisex sempre più ampio, però, ci sono consumi per lui e per lei che si caricano di valori diversi a seconda dei casi. Patrizia. Sì, l'identità è una questione molto complessa, oggi anche molto controversa, non è infatti riconducibile solo all'appartenenza di genere. La componente biologica non è quindi l'unico fattore distintivo e la dimensione culturale contribuisce a diluire l'identità e a renderla fluida oltre il binomio dicotomico uomo-donna. Si può essere anche molto altro. Lo vediamo nei nuovi nuclei familiari che non necessariamente sono composti da coppie di uomini e donne, lo vediamo per esempio nel diritto che consente in alcuni paesi il cambio di identità sui documenti senza necessariamente che chi lo sceglie abbia cambiato il proprio corpo, e lo vediamo anche nel mondo dei consumi e non solo culturali. Quindi con l'etichetta gender blind, che possiamo tradurre con asessuato, si indica questo trend che travalica la differenza di genere e che, molto interessante, in Svezia ha contaminato per esempio il settore giocattoli per bambini. Sul mercato sono comparsi giocattoli senza sesso e questo trend si rifletterà anche nei negozi, ha detto lo scorso Natale al Wall Street Journal il direttore vendite della catena Bear Toys, con 303 punti di vendita in tutto il nord Europa. Pistole per bambine, bambole e phone impugnati da bambini sono presenti nel catalogo di Top Toy Group, a cui fa capo appunto la catena, distribuito in 12 milioni di esemplari alle famiglie svedesi. Prodotti e retail interpretano quindi a modo loro le nuove policy e iniziative del governo svedese in tema di parità tra sessi. E c'è anche un cambiamento linguistico, simbolico e sostanziale per questo cambiamento che è culturale, con l'introduzione di un nuovo pronome, hen, da usare al posto dei pronomi maschile e femminile, quindi il lui e il lei, quando non si vuole porre l'accento sull'identità di genere della persona di cui si parla. E per sviluppare interesse per tecnologia e ingegneria, ma anche per scienze e matematica, che sappiamo sono settori di ricerca ma anche ambiti professionali presidiati soprattutto al maschile, abbiamo case di bambole del marchio Ruminate da costruire e assemblare, arredare con tanto di mobili da progettare e l'impianto elettrico per esempio da installare, e quindi grazie a tre diversi kit un classico gioco femminile diventa educativo e stimolante anche per lo sviluppo di abilità e forse future professioni. In principio ci fu il trend unisex che si applica da sempre con formule e sperimentazioni però molto diverse nella moda. L'androginia, l'identità estetica ibrida tra maschile e femminile, trova infatti nella moda e nel gender bending lo sconfinamento dei generi, la rimodulazione degli stili vestimentari, dei look, le sue espressioni più affascinanti che da decenni ci vengono proposte. Un esempio è lo stilista giordano-canadese Rad Urani, che ha lanciato la sua omonima collezione haute couture, decisamente sperimentale nei colori, nei materiali, nei volumi, in senso quasi architettonico, che è esclusivamente unisex. E restando in campo moda, ma passando dagli abiti alle persone, il caso di Casey Legler, ex nuotatrice olimpica, formazione d'architetto e designer, fisico mascolino, viso dai lineamenti scolpiti, è la prima donna ad aver firmato un contratto con la prestigiosa agenzia di moda Ford Model, ma come modello uomo. E così come Andrei Pejic, madre serba, padre croato, cresciuto in Australia, scoperto come modello a 17 anni mentre lavorava in un McDonald's, sfila sia per le collezioni femminili che in abiti maschili. Rientra tra i 50 migliori modelli maschi della classifica models.com ed è, pensate, al 98esimo posto tra le 100 donne più sexy al mondo della classifica della rivista FHM. Non a caso testimonial di EMA, una catena di grandi magazzini olandese, per il lancio di una linea di intimo femminile che l'ha visto indossare un reggiseno push-up. Si chiama Gender Bender, il festival internazionale nato nel 2003, un festival italiano con sede a Bologna, che presenta appunto gli immaginari contemporanei legati alle nuove rappresentazioni del corpo, delle identità di genere e di orientamento sessuale. Un festival ricchissimo di appuntamenti interdisciplinari, dal cinema alla danza al teatro alle arti visive, la letteratura, la musica. È un modo per indicare vie per andare oltre le norme e gli stereotipi del maschile e del femminile e anticipare le trasformazioni divenute ormai parte integrante del nostro presente sociale e culturale. Un prodotto che annienta le distinzioni di genere è Acqua Universalis, il profumo universale, come dice il nome, ideato dal profumiere francese Francis Courtian. In un settore, quello della profumeria, dove il per lui e per lei è il must, questa è una fragranza che può essere usata non solo in diversi contesti, quindi come profumo personale sulla pelle, sui vestiti, per la casa, l'automobile, ma appunto è per uomo e per donna, poiché questo è il concept innovativo, è l'essenza stessa del pulito, sa cioè di bucato appena fatto. Analogo è il caso degli anelli con diamanti unisex della designer londinese Julie Usel, gioielli da indossare senza chiedersi per chi sono. E in tema di pari opportunità, ecco che cosa scrive la sociologa Rewin Connell, una delle più importanti studiose di genere a livello mondiale, nel primo capitolo del suo libro Questioni di genere. Nella vita di tutti i giorni, il genere è qualcosa che diamo per scontato. Identifichiamo istantaneamente una persona come uomo o come donna, ragazzo o ragazza, e organizziamo la maggior parte delle nostre occupazioni quotidiane sulla base di questa distinzione. È proprio la credenza che la distinzione di genere sia qualcosa di naturale a rendere scandaloso il comportamento di chi attiene a questo modello. Essere uomo o donna non è quindi una condizione predeterminata, bensì il risultato di un divenire. Un essere che è sempre attivamente in costruzione. Patrizia, molti brand e molti prodotti invece puntano, a ragione o meno a seconda dei casi, sulla differenziazione. La leva di marketing sul genere è ancora molto forte. Certo, è l'altra faccia della medaglia, c'è caso e caso, e il margine di innovazione è ancora molto alto, ovviamente. Per esempio, in ambito food, il caso del lancio dei sex cereals, che sono un alimento funzionale per la colazione dei lui e delle lei, e che sono cereali che puntano al benessere, alla salute, compresa quella sessuale, e vantano il primato di primi prodotti alimentari di genere con effetti specifici su uomo e donna che hanno fisiologie e processi biochimici oggettivamente diversi. I vantaggi dichiarati sono l'incremento di energia e testosterone nel primo caso e maggiore equilibrio ormonale nell'altro. L'idea è della startup canadese Big Life Living, che distribuisce questo prodotto in tutto il mondo. E a proposito di diverse fisiologie maschili e femminili, segna una vera e propria rivoluzione in campo medico e farmacologico la nascita della cosiddetta medicina di genere, un approccio che studia l'influenza del sesso e del genere su malattie, terapie e mortalità. Da sempre la presenza di donne nei protocolli di ricerca è molto scarsa, gli studi vengono condotti da sempre prevalentemente sugli uomini, tranne che nei casi di osteoporosi e depressione, quindi trasferendo poi i risultati di questi studi alle donne, nonostante le numerose differenze anatomiche e appunto fisiologiche. I farmaci venduti, dicono gli studiosi, potrebbero quindi non essere validi per la metà della popolazione. La leva di marketing sul genere, dicevamo, è ancora forte, così come ci sono le versioni femminili delle scatole degli attrezzi con manici e impugnature dei vari strumenti pensate per mani di misure più piccole. C'è per esempio la versione maschile dei cupcakes, c'è il ferro da stiro della Philips, nero, più imponente, aggressivo, più performante degli altri da uomo. Qualcuno ha pensato anche a delle candele con profumazioni maschili. Sono le men cans, l'alternativa olfattiva alle fragranze convenzionalmente dolciastre o comunque percepite come femminili. Queste candele emanano odori di bacon fritto, per esempio, di falò che brucia, di tabacco da pipa, di un guanto da baseball nuovo e così via. Anche il retail ci offre dei casi interessanti. A Praga, un nuovo centro commerciale pensato per clienti e consumatori maschili. Comprende sartorie di moda maschile, ovviamente, sigarerie, barbieri e spa, profumerie e anche negozi di cibo pensati solo per i lui. E uno store che in Australia, a Sydney, ha introdotto uno spazio ricreativo per fidanzati e mariti stanchi o stufi, un po' come i bambini che hanno già le loro aree giochi. È un salotto con riviste, calcetto, caffè, hot dogs, console per videogiochi, televisori con canali sportivi e comfort vari. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Parigi sui consumi di genere? Ce lo racconta come sempre la nostra Urban Watcher Alessia Zampano. Ciao Alessia! Ciao, buon pomeriggio. Il primo detersivo d'avvocato dedicato al pubblico maschile si chiama Antoine e nasce dalla collaborazione di due amici d'infanzia, Dominique Schindre, un passato da profumiere per una multinazionale giapponese, e Noé Lozouf, un ex bancario di un grande gruppo francese nonché esperto di marketing. I due hanno pensato bene di offrire agli uomini un'alternativa ai detersivi tradizionali, caratterizzati da profumazioni smaccatamente femminili. E lo hanno fatto in grande stile, creando non solo un nuovo prodotto, ma un marchio alto di gamma, in vendita in una ventina tra le principali boutique della capitale francese. Il detersivo è contenuto in una bottiglietta di vetro dalle forme retro, ispirate alle bottiglie che contengono l'olio. Una dose da 25 ml è sufficiente per lavare 10 camicie, che usciranno dalla lavatrice avvolte da un sentore virile e robusto, dato dal mélange di tre essenze, sandalo, cedro e muschio bianco. Grazie Alessia. Patrizia, anche nel mondo dei consumi la questione di genere diventerà sempre più importante, imprescindibile. Quanti uffici prodotto, marketing e comunicazione dovranno porsela? È una questione decisiva. La differenza di genere esiste, la si può celebrare o mettere in discussione in molti modi, sottolineandola o diluendola, ed è una grande questione che va al di là del mondo dei consumi perché è sociale, culturale e anche economica. Pensiamo al mondo del lavoro. Dunque, di sicuro ineludibile. Ed è tutto anche per questa settimana. Se vi siete persi qualcosa, se volete dirci qualcosa, c'è il sito di Radio 24, c'è la pagina Facebook di Essere Avere oppure la mail esseravere@radio24.it. A domenica prossima, un saluto da Maria Luisa Pezzali.